siamo qui con Federico Raponi che presenta il suo libro che si chiama Quando il fumo si dirada. Agenzia grafica Tofani, che in questo caso è stata anche editrice, perché è una tipografia del Frusinate attiva dal 46, quindi ha una lunga tradizione. Me l'ha consigliata un mio amico scultore che con loro ha fatto il suo catalogo di opere e quindi è specializzata in opere d'arte e la qualità si vede. Mentre per la parte digitale con Bright Street Lib, una piattaforma che fa sia digitale che il cartaceo, però io ho diviso le due cose. Il digitale lo gestiscono loro e invece la carta stampata è gestita da me, insomma. Tra l'altro mi dicevi che proprio il 22 dovrei andare a prendere la... La prima ristampa. Abbiamo fatto una prima tiratura che è andata, sta andando bene, perché sono riuscito anche a fare un po' di presentazioni certo, dalla fine di agosto fino ad ottobre, perché poi invece c'è stata la seconda ondata del virus, per cui siamo riusciti a fare una cosa in presenza un paio di domeniche fa e adesso siamo qui. Ecco, allora Federico, io partirei dal titolo, anche perché non vorrei proprio svelare tutto il libro, sennò uno dice che me lo compro a fare. Io partirei dal titolo, Quando il fumo si dirada, che sembra un po' la prosecuzione ideale della frase dell'Alighieri: mi trovai per una selva oscura ove la diritta via era smarrita. Cioè, nel senso, tu, avendolo scritto anche insomma ad un'età appunto adulta, ecco, tu l'orizzonte hai dipanato la foresta oscura. Sì, tanto la scintilla viene da un verso di una canzone degli Assalti Frontali, che è una band hip hop romana che ha fatto un po' la storia del rap in Italia dal 1990 in poi. E il verso di quella canzone è: in mezzo al fuoco della strada la nebbia si dirada. È stata una prima scintilla, poi invece il titolo è venuto fuori da sé con estrema naturalezza. Beh, è bello. Io fino a poco tempo fa non ci pensavo proprio a scrivere un libro, tanto più delle mie memorie. E invece è venuto fuori questa spinta, questa esigenza, anche un po' indotta, insomma, da chi mi diceva: ma perché non ci scrivi una storia di tutte le tue avventure? Ed è un libro che parla soprattutto della mia esperienza, della mia militanza politica. E quindi è anche evocativo il fumo un po' della piazza quando ci sono dei disordini, o l'immagine che ti viene in mente è le cariche della polizia, le barricate, no? E allora il fumo è proprio quello, ma anche il fumo dell'oblio. Per cui il fare una ricerca di memoria, tornare indietro di 30 e più anni, certo, è anche un lavoro che serve a... psicanalitico, ecco, un po'. Anche un po' psicanalitico, perché no? E serve un po' a dissipare questa nebbia che avvolge tutto. Anche da un punto di vista poi diverso, anche di una solitudine per recuperare i ricordi. Esatto, sì, sì. Uno ha bisogno un po' di stare in disparte per fare chiarezza su questa ricostruzione, anche se poi in questa ricostruzione mi sono avvalso invece anche di tanto dei ricordi di amici e conoscenti che mi hanno aiutato a recuperare pezzi, a precisare meglio alcuni passaggi. E poi questo, secondo me, è molto utile in un periodo in cui c'è una potenza dell'immagine e la parola perde di senso e di valore, e anche la memoria perde di valore. Viviamo sempre più in un eterno presente in cui invece bisogna far tesoro di quello che è stato e delle esperienze che uno ha fatto. Insomma, anche perché questa non è solo un'esperienza mia, è un diario personale, è un mio percorso, però racconto una storia che è stata attraversata veramente da migliaia e migliaia di persone ed è un tributo anche a questo. Ecco, un'altra domanda, una curiosità, perché comunque diciamo il teatro di questo libro comunque è la città di Roma, e poi comunque è anche vero che Roma, soprattutto negli ultimi anni, ha sempre spesso delle descrizioni un po' come di una città, insomma, tra virgolette, cattiva. Invece nel tuo libro si denota che comunque questa città è una città vitale, in cui succedono cose, si formano luoghi di incontro, in cui le proteste anche giuste, a me viene in mente l'occupazione del Teatro Vallo, del Cinema Palazzo ultimamente, quindi anche con degli scopi proprio culturali, la caratterizzano. Quindi è una città viva, ecco. Sì, sì. Se pensiamo agli anni 90, ricordo sempre questa cosa. Poco tempo fa è uscita un'antologia Detonazione, si intitola, che è un bel volumone e raccoglie tutto quello che si è mosso a Roma in quel decennio che appunto caratterizza gli anni 90, dalle fanzine alle radio antagoniste autogestite, ai centri sociali, ai rave, illegal rave che hanno caratterizzato la periferia romana. E ti rendi conto che questa città dal punto di vista sociale e culturale ha prodotto veramente tanto, soprattutto in quel decennio, ma tuttora gli spazi sociali occupati, autogestiti, rivestono un ruolo fondamentale in questo. Ed è stata un argine prezioso a partire dalle periferie rispetto poi, ecco, a quei lampi di decadimento che la cronaca ci regala negli ultimi anni. Ecco. Scusate, mi interrompo. Hai toccato un argomento che mi interessava, quella dell'esperienza che anche tu hai fatto e che cita anche nel libro, del Teatro Valle Occupato. Con sì. Antonio abbiamo avuto modo di andarci spesso. La fine dell'occupazione, soprattutto avvenuta in quel modo, tu lo consideri un fallimento o una cosa forse inevitabile? Al Teatro Valle Occupato ho dedicato giustamente un capitolo del libro perché è stata l'ultima esperienza collettiva ad entusiasmarmi a Roma. Era partita come un'occupazione simbolica di 3 giorni all'indomani dei referendum vittoriosi sull'acqua pubblica e sul nucleare. Poi invece è andata avanti per quasi 3 anni ed è stato un laboratorio incredibile sia dal punto di vista culturale che politico che sociale. E l'ho frequentato assiduamente, tra l'altro aveva alle spalle 2 grandi personalità che interagivano con il collettivo. Il professor Ugo Mattei, uno degli estensori dei quesiti referendari per l'appunto, e Stefano Rodotà, che è stato candidato alla presidenza della Repubblica. Hanno messo in piedi poi questo tentativo, questa fondazione Teatro Valle Bene Comune, che era pieno di potenzialità. Per questo progetto sono riusciti ad autofinanziarsi con le iniziative che facevano decine di migliaia di euro. Poteva essere una grande occasione per Roma. Poi la trattativa con le istituzioni, con il Teatro di Roma, ma non solo, è stata secondo me una palude che ha veramente fatto perdere un'occasione non solo a tutti gli artisti, le artiste, i tecnici che hanno portato avanti l'occupazione, ma è stata una perdita per il mondo culturale e politico, perché poteva essere veramente un esperimento interessantissimo. Tra l'altro in un teatro che è il teatro più antico della città, poteva essere veramente un laboratorio di una politica e di una cultura altra. Quando facevano le iniziative sono venuti nomi importantissimi, sia italiani che internazionali. C'erano serate in cui c'era una fila per entrare che faceva tutto il giro dell'isolato, una partecipazione incredibile, veramente. Invece adesso poi con la zona è completamente... È tutto racchiuso, non sono mai partiti i restauri. Tutti anche i locali intorno, i bar, adesso sono tutti chiusi perché non c'è più. Ovviamente anche l'indotto ci ha messo dalla stupra. Perché ormai quanto sono? 5 anni che è chiuso. Dal 2013. Ma io per l'esperienza da spettatore trovavo comunque una gestione qualitativa altissima, cioè non lo spazio occupato in cui ti faccio una cosa sperimentale, no, erano spettacoli veri. C'era una programmazione, c'era il teatro... Interessante rispetto a teatri... Come no, c'era il teatro ragazzi, c'era una cura nella gestione, non potevi entrare in sala con cibo e bevande, c'era un controllo rigorosissimo. Una pulizia che, sai, nel luogo occupato uno dice sempre però infatti sì. La pulizia è un rigore equivalente a qualsiasi teatro stabile che si trovi. E rispetto a Roma era anche qualitativamente superiore. Un esperimento secondo me che era diventato una realtà. Poi è chiaro che quando tu vai a mediare la tua situazione di occupante con qualsiasi forza politica, non voglio neanche dire sinistra, destra, quello che è, entri in un clude e perdi la tua forza. Quando tu vai a contrattare, a trattare, in quell'attimo stesso perdi la tua forza. Anche perché la controparte punta continuamente al ribasso. Non hanno avuto, ecco, la visione di qualcosa di nuovo. E devo dire purtroppo, perché per me è stata una grande perdita quella dell'esperienza Valle, che poi non si è riprodotta altrove. Lasciato il posto è un'esperienza che si è disgregata, purtroppo. Scusate se faccio una divagazione un attimo. Invece dell'esperienza del Cinema America, e poi sfociata nel piazza, no? Cioè, è un'esperienza similare, forse un po' più furba dal punto di vista gestionale. Ecco. Ho attraversato anche quella, perché oltre a organizzarmi nel gruppo cinema del Teatro Valle Occupato, in cui abbiamo organizzato rassegne soprattutto di documentaristi, ho riproposto la stessa formula al Cinema America Occupato, quando era ancora dentro al cinema, nell'esperienza a Via Natale del Grande, anche quello un cinema storico che rischiava di diventare un complesso di appartamenti con garage. Per fortuna c'è stato il vincolo dei beni culturali. Anche lì ho organizzato serate, anche quella è un'esperienza molto interessante, perché se consideri che sono ragazzi che all'epoca avevano quasi tutti meno di 20 anni, hanno tirato fuori un'esperienza del genere e hanno regalato alla piazza principale di Trastevere, che è piazza San Cosimato, mesi di cinema gratuito in piazza all'aperto. Hanno portato registi, attori, attrici, produttori, distributori. Il Presidente della Repubblica ha inviato loro una lettera, è stata letta in una serata. Il Presidente del Consiglio Conte è andato lì ad una serata. Se tu pensi che sono, ecco, dei ragazzi che, senza prendere soldi, facendo tutto in maniera completamente autogestita, hanno tirato fuori questo, ma ben venga, ma magari ci fosse una gioventù riprodotta in questo senso in tutta Italia che animi esperienze di questo tipo. Ma loro adesso avranno questo cinema, la Sala Troisi, no? Adesso stanno per prendere in gestione la Sala Troisi, che è un altro cinema storico della città che era chiuso da anni. Anche lì vorrebbero fare uno spazio polifunzionale con sale studio, biblioteche ed eventi, oltre al cinema. Ben venga, insomma. Sì. È un'altra esperienza che io conosco, che secondo me era interessante, che anche lì era un luogo, devo dire, che molto rivalutato, era il Cinema Palazzo. Cinema Palazzo, certo. E poco tempo fa è stato sgomberato. È stato sgomberato. Il Cinema Palazzo, anche quello attivo da diversi anni, è stata un'iniziativa di quartiere, San Lorenzo, che è uno dei quartieri storici di Roma, pieno anche lì di esperienze autogestite, di spazi sociali. La proprietà voleva farne una sala bingo, la cittadinanza si è opposta, hanno creato questa esperienza che ha dato vita a centinaia di iniziative nel corso degli anni, dallo sport popolare agli studenti, al teatro, al cinema, e con poca lungimiranza anche lì. La proprietà, dalle dichiarazioni degli stessi proprietari, non era interessata a quello spazio. Se l'amministrazione avesse dato uno spazio in alternativa a loro, loro l'avrebbero lasciato tranquillamente agli occupanti, che poi di fatto l'hanno restituito al quartiere e fatto, certo, vivere, a uno spazio chiuso. Sì, sì, è vero. E adesso questa è la trattativa. Adesso è in corso questa trattativa. Tra l'altro voglio ricordare anche che nel giorno dello sgombero la sindaca twittò felicitandosi dell'operazione di polizia che aveva nella stessa mattinata sgomberato una sede di Forza Nuova nel quartiere di San Giovanni, che di fatto invece era una birreria, una sede politica trasformata in birreria, e il Cinema Palazzo. Poi ha fatto marcia indietro quando si è sollevata l'indignazione. Anche lo stesso vice sindaco Luca Bergamo ha fatto le dovute differenze tra le due esperienze, però di fatto la miopia c'è stata, speriamo che si recuperi in qualche modo, ma questo è. C'è stata anche l'esperienza dell'Angelo Mai, anche quello. L'esperienza dell'Angelo Mai, che ha speso tante energie anche nell'occupazione del Teatro Valle, era un'esperienza simbiotica. L'Angelo Mai si era speso molto anche per l'esperienza del Teatro Valle, sì. Ecco, a Roma c'è questo aspetto positivo degli spazi sociali che in qualche modo fanno rete, ognuno con le proprie differenze, le proprie peculiarità. Negli anni si è creato un reticolato che offre, come dicevo prima, una politica, una socialità e una cultura di altro tipo e dal basso. Ma è la tua prima, diciamo, passione? Cos'è stato il Trullo, il centro sociale del Trullo? No. No, io frequentavo durante il periodo del liceo, negli anni 80, i primi centri sociali della città, che erano il Forte Prenestino, che è uno dei più importanti spazi a livello europeo, sia per grandezza che per offerta culturale, e poi centri sociali che non esistono più, che sono stati anche quelli sgomberati, chi perché erano proprietà privata, chi perché il comune li ha rasi al suolo. C'era il Breakout a Prima Valle, c'era l'Hai Visto Quinto a Valmelaina, c'era il Ricomincio dal Faro. E nel libro ne parli. Sono tutti citati perché chiaramente sono state tappe del mio percorso. E poi dopo l'esperienza del movimento studentesco della Pantera, che ho vissuto in maniera entusiastica, ho sentito l'esigenza di creare uno spazio autogestito nel mio quartiere, dove non c'era, insomma. E lì è partito tutto. E che era questo? Ascatasuna, che in lingua basca significa libertà. No. Dentro il parco di Villa Panfili. Era dentro il parco? Una scuola, dei padiglioni abbandonati, anche lì c'è da aprire tutto un capitolo sugli spazi dismessi nella città, che tutte queste occupazioni, queste esperienze hanno valorizzato, gli hanno ridato vita, li hanno restituiti alla collettività. Questo è un dato di fatto. Ma invece, che hai appena citato, parlaci un po' dell'esperienza studentesca con la Pantera, perché io e Gianantonio poi in quel periodo, Gianantonio era a Padova, forse un po' di più, però qua in provincia si è sentita magari molto meno rispetto alla situazione romana. Dici un po', è sempre stato paragonato, no? Anche erroneamente al 68, era terra densissima, 30 gradi, però in quel movimento tu cosa ci hai trovato buono, diciamo? Poi tra l'altro io ero iscritto a psicologia, che era dentro San Lorenzo la facoltà, e invece stavo quasi sempre alla Sapienza, dove c'era il grosso delle occupazioni, lettere, a scienze politiche, fisica. L'ho vissuta molto come massa critica, ecco, diciamo così. E frequentavo poco gli ambiti organizzativi, le riunioni, ma molto le iniziative sociali. Diciamo che in quel periodo la Sapienza per qualche mese è stata un enorme centro sociale, nel senso c'erano continuamente assemblee, dibattiti e iniziative culturali che vanno dai concerti al cinema al teatro. Era nato contro la riforma Ruberti, che puntava alla privatizzazione del sapere accademico. È stato già qualcosa di molto diverso dal movimento, appunto, che tu citavi degli anni 70, nonostante fossero passati relativamente pochi anni, la società italiana negli anni 80 è profondamente cambiata. Diciamo che concretamente ha ottenuto poco, perché comunque la privatizzazione di fatto è passata, però è stata la molla che ha fatto partire tante esperienze sociali, culturali, politiche in città, ha rianimato e fatto aprire altri spazi sociali in città, ha formato, ecco, tutta una generazione, me compreso. Questo è molto importante. Questo è molto importante, certo, certo. Io poi non mi ricordavo, ma il nome Pantera derivava, tu me l'hai ricordato, derivava, ci fu una pantera che dal scappò. Felino che si aggirava nelle campagne romane, era stato anche fotografato e filmato, non è stato mai catturato. Furono due pubblicitari che tirarono fuori lo slogan "La Pantera siamo noi", e il movimento studentesco l'ha fatto proprio. Molto, insomma, è bello. Anche riferendosi un po' al Black Panther Party, certo, del movimento degli afroamericani degli anni 60 e 70, e che poi è stato anche ispiratore del primo disco rap italiano degli Onda Rossa Posse, Batti il tuo tempo, che è stato fondativo, ha messo le basi per tutto quello che è stato l'hip hop da lì in poi in Italia. Invece come la vedi la scena attuale romana, cioè l'underground culturale romano, come lo vedi in questo momento? Sicuramente in ribasso rispetto agli anni 90, quello è poco ma sicuro. Certo. 90 e la linea 2000. Certo, sì. Sì, come dicevo prima, il decennio 90 è stato a livello europeo unico per quantità e qualità della proposta. Io adesso devo dire che frequento molto meno gli spazi in città. Prima mi muovevo tantissimo dal centro alla periferia. Sicuramente ci sono delle difficoltà, è cambiata anche la società. Se il populismo ha fatto i danni che ha fatto, è anche perché il clima culturale è cambiato, il clima sociale, una società che si è molto incattivita, però ci sono ancora tante esperienze che offrono ancora tanto da tutti i punti di vista. E sicuramente incontrano delle difficoltà anche a livello di partecipazione, perché prima eravamo veramente tanti, eravamo migliaia, c'erano manifestazioni di migliaia e migliaia di persone, adesso i cortei sono un'altra realtà. Ha perso anche c'è una domanda qui sotto. Ah, è vero. Dell'aspetto musicale dei gruppi nati in quegli anni. Grazie Daniela per questa domanda. Radio Onda Rossa avevo cominciato con una trasmissione musicale che quasi subito, su proposta del mio collaboratore con cui avevo dato vita a questa trasmissione, si è trasformata noi andavamo in giro per spazi sociali occupati, autogestiti, a registrare i concerti con il DAT, che era un supporto all'avanguardia, allora era usato negli studi di doppiaggio, quindi una qualità alta. E in quel decennio c'è stato l'esplodere della scena hardcore, molti gruppi che si rifacevano al movimento straight edge statunitense, ci sono stati tanti gruppi. Anche da questo punto di vista, quel decennio è qualcosa che non si è ripetuto poi in seguito. Adesso pure non ci sono tutti questi gruppi perché non c'è neanche la possibilità di suonare in... Non ci sono gli spazi. E veramente in una settimana è possibile che ci fossero anche 3-4 concerti in spazi diversi, con più gruppi, con 3-4 gruppi ogni volta. Quindi c'è stato veramente un esplodere della musica come probabilmente non si era mai visto a partire da Roma. Poi non so, a livello nazionale anche c'era una situazione effervescente, ma Roma in quel periodo ha veramente offerto tanto. Beh, poi insomma tutti ci ricordiamo i 9-9 Posse, gli Ama Negretti, gli Isola Posse, a Bologna, gli assalti frontali con prima erano Onda Rossa Posse, perché anche lì era un duo che aveva una trasmissione rap a Radio Onda Rossa, e da lì poi fecero questo disco storico, Batti il tuo tempo, che era stata anche la colonna sonora di tutto il movimento studentesco della Pantera, e da lì in tutta Italia si è diffuso il fenomeno delle posse. Sul Sound System, Isola Posse, 99 Posse, Fratelli del Sole, da Nuova Gretta, a Milano, come no? E Radio Onda Rossa da quant'è che c'è? 24 maggio 1977 è una delle prime cosiddette radio libere. Subito dopo Radio Alice c'è stata Radio Onda Rossa. Tra l'altro c'è anche questo aneddoto che non tutti sanno: Peppino Impastato, quando era di passaggio a Roma, venne anche a Radio Onda Rossa, da lì poi prese spunto quando fondò Radio Out giù in Sicilia. Ci sono state tappe fondamentali di Radio Onda Rossa. Durante il terremoto in Irpinia organizzò la raccolta di beni di prima necessità, ci fu una carovana che andò in uno dei paesi colpiti in Irpinia dal terremoto. La protezione civile non esisteva in Italia, nacque proprio all'indomani dell'esperienza traumatica e drammatica del terremoto in Irpinia, e poi è stata in prima linea Radio Onda Rossa sulla battaglia a metà degli anni 80 contro il nucleare a Montalto di Castro. È stata una delle radio del circuito Radio Gap a Genova durante il G8 del 2001. Tante tappe importanti. Ed è sempre stata lì a San Lorenzo? Sempre stata lì, gestita da una figura giuridica, è una cooperativa culturale, ma insomma un proforma, perché poi è una radio autogestita. Tutti i lunedì sera c'è la riunione di gestione che decide il palinsesto. E tu lì, ad esempio, oltre a... perché Radio, per esempio, hai sempre curato una bella sul cinema. Prima avevo cominciato con la trasmissione musicale, poi con una trasmissione sulla memoria storica. Quando ci fu il processo Priebke, uno dei criminali nazisti responsabili dell'eccidio delle fosse ardeatine, ci fu il processo a Roma, anche quello ha fatto storia. Noi abbiamo dato vita a questa trasmissione, che si avvalsa anche del contributo di due partigiani della Roma resistente, che sono Franco Bartolini dei GAP e Bandiera Rossa con Orfeo Mucci, che era uno dei comandanti. Abbiamo seguito tutto il processo Priebke, tra l'altro ci fu poi, quando il tribunale militare a Viale delle Milizie lo assolse durante il primo giudizio, ci fu la rivolta anche grazie sia a Radio Onda Rossa, che era presente e fece accorrere lì il movimento antagonista, e poi grazie anche alla comunità ebraica presente al processo. Si chiuse proprio il tribunale, si erano barricati dentro e fuori c'era tutto il movimento antagonista. Ci fu questa rivolta che impedì questa vergogna, tra l'altro poi arrivò la richiesta di estradizione da parte della Germania per Priebke. In quella prima sentenza fu assolto e fu liberato, poi non se ne andò più per l'impegno, era un uomo libero fondamentalmente. Era un uomo libero, e già la rivolta nacque anche dal fatto che c'era un aereo pronto per portarlo via dall'Italia. Il secondo processo, che si tenne nell'aula bunker di Re Bibbia, ha sancito, e questo ha fatto storia, l'imprescrittibilità per i crimini di guerra e la responsabilità individuale, perché nei precedenti processi, per esempio a Kappler, i suoi pari grado furono assolti perché comunque si nascosero dietro all'obbedienza ad un ordine, Invece in questo fu sancito che ogni crimine nazista aveva il suo colpevole. Non fece un giorno di prigione poi alla fine, perché anche per l'età andò domiciliari. Sì, ai domiciliari, però comunque la condanna è stata insomma un tassello importante per la storia internazionale, direi, non solo... per la strage. Sì, poi per... lo scandalo derivò sul punto che lui già in Argentina tutti sapevano che era là, lo conoscevano. Sì, sì. Comunque, ecco, è un libro, diciamo, colmo di cose. C'è tanta storia. Tanta storia personale, ma c'è anche tanta storia di una generazione intera. Sì. Faccio un'altra domanda sulla radio. Una radio indipendente come quella dove tu ancora collabori, quanto risente della concorrenza, tra virgolette, dei social? Ma anche dico dei social in assoluto, che il veicolare il messaggio, l'informazione, adesso si fa anche tantissimo tramite social. C'è la radio, è abbastanza più statica, volendo. Sì, però ti permette un'interazione con chi ti ascolta, è molto diretta, e poi... Sì, e poi il fatto che ne puoi fruire in qualunque momento, la radio è lì, ti impegna solo l'udito, al contrario della televisione che ti può ipnotizzare, la radio è una compagnia non invadente. E questa realtà è stabile secondo te in questo momento? Sai, è una realtà in continua trasformazione, considera che al 2018 posso dirti che i costi di gestione di una radio autogestita come Onda Rossa erano stimati in 30.000 euro annui. Quindi questo ti impone di organizzare continuamente iniziative che vanno dalle cene all'agenda scarceranda, al calendario, alle serate di cultura. Certo, per forza. Però secondo me la radio continua ad avere un suo ruolo, perché le radio, anche le altre radio, comunque non conoscono crisi, o almeno... molto meno rispetto a quanto era previsto, rispetto al fenomeno della rete, insomma, quello che doveva rivoluzionare tutto. Comunque la radio è quella che ha sofferto meno rispetto, per esempio, alla televisione o ad altri canali. Ti ha portato qualcosa questa pandemia? Niente. È stato un anno terribile. A maggio ho perso mio padre, a lui ho dedicato il libro a febbraio-marzo era pronto, non l'ho fatto uscire in quel periodo perché non avrebbe avuto molto senso. E ho avuto modo di fare avere a mio padre una bozza definitiva, e quindi ha letto anche la dedica a lui, e questo è stato un grande momento per me, perché poi ci siamo telefonati ed è stato un momento intenso. L'ho voluto poi fortemente far uscire il libro, che sono andato a prendere a metà luglio, e ho cominciato con le presentazioni, che probabilmente è il momento più bello di interazione con la gente. Vorrei farne tante altre a Roma, ma anche in Italia. Il 22 vado a prendere questa prima ristampa, tra aggiunte, modifiche e correzioni, quindi è importante come evoluzione. Credo che sia, ecco, un lavoro in divenire, perché poi nel corso di questi mesi e di varie presentazioni ho continuato a parlare con le persone che magari hanno attraversato anche il libro, e quindi ho ricostruito ulteriormente altri passaggi, per cui ci sono altri personaggi in questa prima ristampa, altre storie, e altrettante ce ne saranno per la prossima. Mi sembra proprio un'opera in divenire, questo mi piace. Non l'ho detto, ma dove si trova il tuo libro? Sul mio blog, che è tutta scena 1, con 1 a numero, wordpress.com, c'è un post proprio dedicato al libro, lì c'è l'elenco delle librerie, a Roma sono 5 librerie, e poi faccio anche spedizioni attraverso le poste, mentre la versione digitale è affidata a Dry Street Lib. La parte cartacea me ne occupo completamente da solo, e questo mi piace. Non ti sei affidato a un distributore? Non mi sa. No, lo farò con... non so se conosci l'esperienza OpenDDB, Distribuzioni dal Basso di Bologna. Credo che lavorerò con loro. È un'esperienza molto interessante. Sì, poi loro li seguo sempre, sia anche per la mia trasmissione di cinema. Loro lavorano soprattutto con il cinema, oltre che con la letteratura. E quindi li conosco bene, mi piace come lavorano, mi piace come esperienza, quindi sicuramente collaborerò. Bene. Mi ha fatto veramente piacere. A questo punto speriamo di ripeterci a Ferrara. Sicuramente a Ferrara, poi io scendo spesso a Roma, sicuramente ci rivedremo anche per una birra insieme. Va bene. Ci rivedremo a Roma, a Ferrara. E anche a Ferrara, dai, con piacere. Ciao, ciao. Grazie, ciao a tutti. Ciao.